Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, un nuovo appuntamento con il nostro corso di corsa alla radio e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno. 8 minuti per andare alla scoperta delle molteplici sfaccettature del mondo della corsa, dalla prima gara su strada alla motivazione, dal recupero alla nostra prima maratona. Argomento quest'ultimo che approfondiamo con il nostro ospite di oggi, coach Fabio Vedana. Bentornato. Ciao a tutti. Ivana, tu che ricordo hai della tua prima esperienza con la maratona? Meravigliosa. Io feci come prima maratona Reggio Emilia. E mi piacque tantissimo, è stata una bellissima esperienza. D'inverno, e quindi d'inverno, sì, era la, mi sembra la prima domenica di dicembre o la seconda, adesso non ricordo, ed è stato bellissimo. Poi non sono arrivata neanche con grandissima difficoltà, però la maratona che ricordo con tanto affetto e con tanto amore è stata quella di Amsterdam, che l'ho vissuta proprio centimetro per centimetro ed è stata meravigliosa. Infatti poi ho fatto anche il mio personale, quindi sono molto legata. Quella del 2015? Sì, c'ero sì, anch'io. Sì, sì. Bella, bella, bella. Ecco Fabio, allora facciamo un passo indietro. Diciamo che qualcuno c'è appena accesa la lampadina che gli dice corri la tua prima maratona. Qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Per chi vuole approcciarsi alla prima maratona bisogna ben specificare che non è per tutti se vogliamo andare a testare i nostri limiti. Se vogliamo farla solo per farla, io sono l'esempio, non l'avevo mai fatta perché faccio il coach, ma non sono un grande... Ho fatto l'atleta tanti anni fa, ma adesso sono... Mi sono riservato solamente le emozioni dell'allenatore. Per farla tanto per farla, la puoi fare camminando, ci metti sette ore e la fai. Se invece vuoi andare a vedere un po' qual è il tuo limite su questa distanza un po' magica che è quella della maratona, che ha proprio anche una valenza culturale perché è storica, allora devo cercare di mettere in pratica tutte queste strategie riguardo proprio... che cosa devo fare per allenarmi e quindi con l'allenamento, quindi per adattarmi ad arrivare più forte sia mentalmente che fisicamente a questo evento. E l'aspetto più importante è l'allenamento della resistenza, ma ancora prima di allenare la resistenza dobbiamo allenare il nostro corpo e l'equilibrio proprio muscolare del nostro corpo, perché se abbiamo squilibri il fatto di perseverare a lungo nel gesto lì esalta e quindi devo cercare prima di trovare l'equilibrio muscolare. Questo è l'aspetto più importante per i neofiti. Magari non è tanto cominciare a fare tanti chilometri, tanti minuti di endurance, ma prima andare da un buon fisioterapista, da un buon posturologo che ci dica: guarda, hai la struttura per poter sopportare per poter sopportare un aumento del carico. Può essere utile invece, prima di approcciarsi alla maratona, passare attraverso delle gare con distanze minori, tipo una mezza maratona, perché molti magari mettono l'obiettivo di, come esempio, New York, fanno solo quella e è finita. Invece magari è meglio cercare di continuare. Sì, nel mio lavoro molti vengono da me perché vogliono realizzare il sogno di fare una maratona e io faccio sempre un percorso che prevede anche delle gare di preparazione, perché proprio le distanze intermedie ci aiutano anche a gestire al meglio le nostre risorse, anche sia energetiche che mentali, no? Perché comunque all'inizio magari ci viene difficile anche pensare di fare 5 km di corsa al nostro meglio, poi pian piano invece possiamo pensare che anche 42 km non è una cosa così irrealizzabile. Poi Ivana, poi nel fatto di prendere energia da questo ha esagerato un po', perché poi lei è andata oltre, ma molto oltre i soliti 42 km e 195 metri, che sono importanti anche quelli a livello di prestazione. Quindi può essere utile in questo caso segnarsi una tabella di riferimento da seguire nella preparazione del raggiungimento di questo obiettivo. La tabella è un po' la roadmap, no? Okay. Cioè è un po' la nostra cartina che ci permette di orientarci per arrivare al nostro obiettivo. Però non bisogna neanche essere succubi della tabella, per cui devo per forza fare quello che c'è scritto. Dobbiamo ricordare che l'essenza dell'allenamento è l'adattamento. Quindi noi dobbiamo sempre dare lo stimolo giusto, massimo, il massimo stimolo che crei l'adattamento corretto nel nostro corpo. E quando vediamo che l'adattamento corretto avviene è quando miglioriamo. E quindi quando gradualmente noi, magari non da seduta dopo seduta, ma da periodo dopo periodo, vediamo che la nostra capacità di mantenere la resistenza è più alta, la nostra capacità di mantenere la frequenza di passo alta è più alta, la nostra capacità di recuperare anche più allenamenti successivi è più grande. Quindi questo è l'aspetto che ci fa capire che siamo nella direzione giusta con la cartina. Ma quanto ci vuole secondo te, Fabio, per prepararla? Cioè, per una persona che si approccia alla corsa e vuole, appunto, come diceva Silvio, a realizzare il suo sogno, fare la maratona di New York, quando è che deve iniziare? Allora, dipende dai punti di partenza, quindi innanzitutto dipende dal tuo stato di salute. Se tu sei una persona che è sana, che non è in sovrappeso, e il problema è perché comunque se sono in sovrappeso devo pensare che ogni volta che io corro devo sopportare quasi ogni passo sopporto quasi il triplo del peso del mio corpo. Okay. Per cui se sono in sovrappeso la mia struttura legamentosa, muscolare, ossea, se non è pronta a sopportarlo, certo, si sollecita molto trauma. Di più. Quindi magari è utile prima andare, insomma, allenarsi per perdere peso. Sì, infatti quello è l'obiettivo. Però se quindi sono una persona in salute, non sono in sovrappeso, ho una buona quantità di tempo a disposizione, secondo me se dedico 5-6 mesi riesco ad arrivare alla prima maratona tagliando la finish line, come dico sempre, che è un po' il mio motto, con il sorriso, perché devo saper godere di quel momento lì, perché sennò perché lo faccio, visto che deve essere qualcosa che aggiunge al mio personale percorso di crescita il fatto di tagliare la finish line. Sì. Anche perché poi questo è uno stimolo per continuare, cioè uno dovrebbe tagliare il traguardo e una volta tagliato dopo 30 secondi avere la voglia di correre subito un'altra, superata la fatica, compensata la fatica, immediatamente la mente va su un altro obiettivo. A me è successa la stessa cosa ad Amsterdam, mancavano circa 2 chilometri, ho pensato adesso quale maratona posso fare? Addirittura, sì, lei anticipa. Sì. Ma io sono sempre così, io prima della fine di un'impresa penso già a quella successiva. Sì. Io all'inizio delle imprese ti faccio sempre fare delle promesse che poi naturalmente sono disattese, però va bene così, dai. Invece chi si approccia alla maratona sente sempre parlare del famoso muro. Sono i 30 chilometri. 30-33 chilometri. Sì, il muro è visto soprattutto per gli atleti di alto livello, perché per gli atleti di alto livello il 30 chilometri è un po' la fine delle risorse energetiche metaboliche date dagli zuccheri che tu riesci a stoccare. E quindi poi devi andare a lavorare con i grassi. E se hai sbagliato a gestire gli zuccheri c'è proprio un muro, perché se non sai usare la filiera energetica data dai grassi non vai avanti, oppure vai avanti ma devi ridurre tantissimo la velocità. E questo può essere stimolato durante l'allenamento? Sicuramente deve essere stimolato durante l'allenamento. Ci sono allenamenti che stimolano il corpo ad usare più questa filiera energetica dei grassi. Per quanto riguarda invece le persone, tra virgolette, normali, che non fanno la maratona in 2 ore e 15 o sotto le 2 ore come hanno tentato recentemente, per le persone normali il 30° chilometro è più che altro un muro mentale, perché comunque metabolicamente avviene già prima. Ok, no, infatti. È più che altro mentale, perché comunque te ne mancano ancora 12 e non sono pochi. Sì, sì, perfetto. E la fatica dei 30 comincia a farsi veramente grande e comincia a sederti come uno scimmione sulla schiena. Quindi a livello metabolico, come dicevi tu, per un amatore avviene prima, insomma, di questi famosi. Perché dal punto di vista metabolico questa barriera è dopo l'ora e mezza, tra l'ora e 40 e l'ora e 45, no? E quindi in un amatore dipende dalla velocità a cui va, però questa è la barriera. E quindi quella del chilometrica dal 30 al 35, secondo me, è data più che altro dalla mentale, da cosa ti aspetta ancora e dalla fatica che hai accumulato. Grazie a Fabio Vedana. Grazie a tutti e arrivederci. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.